9 in punto, la versione di Oscar. Oh, eccoci martedì 24 gennaio a San Francesco di Sales. Un auguro a tutti Francesco che lo celebrano come proprio santo e tradiscono un pochino insomma il nostro patrono nazionale. Detto questo, vi do appuntamento tra un minuto e mezzo per il tema della trasmissione, che lo ripeto dopo il lancio è questo bellissimo libro che vale le 100 pagine e i 12 euro, le 100 pagine in cui consta e i 12 euro che costa. Invece, ripeto, il titolo del libro si intitola Eresie, esorcismi e scelte giuste per uscire dalla crisi. Eresie, esorcismi, scelte giuste per uscire dalla crisi. Rubettino, l'editore, e il professor Paolo Savona, che con noi lo saluteremo tra pochissimo, è l'autore, è un libro sul caso Italia, sulla tenuta dell'euro, su come tornare a crescere difendendo anche l'euromoneta. Ma la particolarità, come vi ho detto all'inizio, è che il professor Savona è stato tra i non molti, anzi tra i pochissimi, che prima dell'euro, mentre ci accingevamo a entrare nell'euro, anzi ancora anni prima, quando se ne disegnavano le regole comuni, ci ha messo sull'avviso, ci ha detto state attenti, stiamo tutti attenti, perché una moneta unica costruita così può comportare fortissimi problemi in caso di crisi per la simmetricità delle aree che la comporranno. Quindi, siccome a maggior ragione, secondo me, uno dei pochi che ci ha avvisato, forse a maggior ragione ancora vale molto la pena di riflettere su quello che ci propone per crescere e per tentare di difendere l'euro. Vi dico subito che ne vale la pena, perché la mia modestissima opinione è che appunto è una cura un po' diversa da quella che va per la maggiore, tanto in Europa quanto in Italia. Lo vedremo tra poco, come sempre in coerenza l'apertura con i Doors, che è un monito di consapevolezza al fatto che la crisi dell'euro tenuta è ancora aperta. Qualche notizia dalla stampa internazionale, di quelle che non vedete molto facilmente sulla stampa italiana. Non voglio fare opera sussidiaria nei confronti di nessuno, ma io ritengo che, siccome da anni siamo nel centro di questo problema dell'eccesso di debiti pubblici, dell'eccesso di consumi pubblici finanziati a debito, forse un po' più di attenzione fuori da casa nostra, anche sul complesso dei media, della stampa italiana, dell'informazione italiana, sarebbe secondo me giusta, appropriata. Invece ci occupiamo dell'informazione europea e di quello che avviene intorno alla tenuta dell'euro solo quando o ci riguarda o dobbiamo avere reazioni nazionaliste. A me questa cosa non piace, credo che sia un problema nostro, dell'informazione italiana, certo non è colpa degli ascoltatori, dei telespettatori o dei lettori. Non sappiamo evidentemente noi per primi capire che il più di quello che determina poi impatti sull'occupazione, sul reddito, sugli investimenti del nostro paese, degli italiani, siccome c'è l'euro, si decide insieme o altrove, comunque rispetto a ogni minimo respiro dei governi italiani, prima dei governi politici, oggi del governo dei tecnici, che invece ci fa riempire decine e decine di pagine. Oggi ci sono pagine, per esempio sull'incontro ieri che c'è stato sull'avvio del negoziato sul mercato del lavoro, nel quale la proposta del governo ancora non c'è, per essere chiari. Quindi le pagine sono un po' colore, un po' illazioni su come la pensa Confindustria e i sindacati, però la questione è che si è aperta una procedura di confronto, ma la proposta del governo ancora non c'è, o meglio ci sono alcune cose che il governo ha buttato lì secondo me per suscitare delle reazioni, esattamente come accadde un mese e mezzo fa, quando la Fornero per finta ingenuità si lasciò scappare l'articolo 18 per ottenere poi la levata agli scudi dei sindacati. Analogamente si dice oggi che la riforma degli ammortizzatori del reddito comporta una cassa integrazione a solo 52 settimane, quindi molto stretta, così i sindacati ancora una volta si compattano alla reazione negativa. Io credo che però questi più che errori siano astuzie, vedremo se mi sbaglio. Allora, informazioni da qualche informazione dei giornali europei. Mi ha colpito che sul Süddeutsche Zeitung vi è un'analisi nella quale si fa osservare come per la prima volta il cancelliere tedesco Angela Merkel, alla conferenza stampa che ha tenuto insieme al primo ministro belga Elio Di Rupo, abbia fatto esplicito riferimento all'ipotesi dell'accrescimento della dotazione finanziaria dell'FSF, del Fondo Salva Stati, e l'abbia fatto, è vero, escludendola, ma ammettendo ammettendo per la prima volta che la Germania rimarrà coerente alla linea del passato, ed è quella di considerare di avere sempre fatto tutto ciò che è necessario per la protezione dell'euro. E è stata anche una risposta all'appello venuto da Christine Lagarde, il capo del Fondo Monetario Internazionale, nel discorso che aveva tenuto a Berlino il giorno prima, e che si era rivolta proprio al cancelliere tedesco, seppur indirettamente, per un potenziamento dell'FSF e per un'anticipazione dell'ESM, che è l'analogo meccanismo a più forte, non più dato le dotazioni nazionali di pura garanzia, che quindi sono sottoposte alle svalutazioni con i downgrading, ma dotato di capitale proprio. C'è un punto su cui su Deutsche Zeitung, come la Faz, Frankfurter Allgemein, approfondiscono intorno poi al fatto se si debba davvero interpretare correttamente come la richiesta di Christine Lagarde, così come è passata ieri sugli stessi giornali, come la richiesta di raddoppiare la dotazione del fondo, passando da 500 a 1000 miliardi, a un trilione di euro. E entrambi i giornali, la Süddeutsche Zeitung, dicono che in realtà, conti alla mano, non è così. La Lagarde in realtà chiede la stessa cosa che ha chiesto Mario Draghi, e cioè di aggiungere altre 250 miliardi di euro di garanzie all'FSF. Ripeto, le garanzie sono quelle poi sottoposte alla svalutazione in cambio, quando, perdonate, avvengono i downgrading, di cui l'ultimo, quello di massa europeo di Standard & Poor's, e quelli che ulteriormente Fitch ci ha preannunciato. Quanto allo stato della trattativa tra detentore di titoli greci e il governo greco, il Financial Times riporta che l'IIF, cioè il cartello dei detentori di titoli, ha abbandonato di nuovo la trattativa, ma in realtà Jean-Claude Juncker, quindi il capo dell'Eurogruppo, dice due cose secondo Financial Times. Primo, che effettivamente le richieste del governo greco vanno ulteriormente al di là dell'offerta dei detentori di titoli, che è stata ulteriormente estesa, se praticamente siamo intorno al 67-68% del taglio del valore dei titoli del debito pubblico greco. Adesso il contrasto si sarebbe spostato sulla media di tasso di interesse delle nuove obbligazioni a lungo termine, con le quali si fa lo swap del debito esistente greco. Il governo greco non vuole andare oltre il 3,5% di tasso di interesse fino al 2020. L'impressione però è che, secondo osservazione di Juncker, è che gli americani e il Fondo Monetario premeranno in maniera tale che i greci non rompano le scatole all'anno elettorale di Obama, in altre parole. Quindi questa è la forte pressione anche da oltreoceano per impedire che l'euro vada per aria. Sui giornali tedeschi si fa il conto di quanto questa ulteriore estensione del valore dei titoli greci sarà per i tedeschi. È riportato il parere di Christopher Pleister, che è il portavoce dello steering committee dell'Agenzia Federale per la Stabilità dei Mercati Finanziari, e nel caso di calo del valore dei titoli greci del 50%, per la Germania, scrive Handelsblatt, avrebbe comportato un costo aggiuntivo di 6 miliardi. È ovvio che con un taglio del 70% bisognerà aggiungerne 2 o 3. Questo è l'opinione del giornale tedesco. Le Monde su un report sulla Spagna: la recessione in Spagna è naturalmente più grave del previsto, la previsione di una caduta del PIL spagnolo di almeno 1,5 punti quest'anno, seguita da una stagnazione nel 2013. Le Monde ha un servizio a fianco in cui critica molto Berlino. Infine, sull'Handelsblatt, l'ex consigliere per la politica estera di Helmut Kohl, il grande cancelliere tedesco dell'unificazione tedesca, Horst Telcic, critica abbastanza duramente, devo dire, l'euroscetticismo tedesco, e attacca non esplicitamente il cancelliere Angela Merkel, ma riconosce che persino Margaret Thatcher avrebbe riconosciuto oggi la priorità di una Europa forte piuttosto che un'Europa che rischia di diventare sempre più debole. Infine, Daniel Cohn-Bendit dice che il fiscal compact è completamente sbagliato, assolutamente non necessario. In caso di vittoria di Hollande alle elezioni presidenziali francesi, si augura che ci sia lo spazio per rivederlo. Questo per farvi capire che il rapporto franco-tedesco rimane minato da molte incertezze nel caso in cui alle presidenziali non vincesse Sarkozy, che sta messo malino nei sondaggi. Allora, andiamo al libro, io vi ripeto il titolo: Eresie, esorcismi e scelte giuste per uscire dalla crisi. Buongiorno e grazie al suo autore, che è il professor Paolo Savona, professore emerito di politica economica, è stato ministro, ora è presidente di uno strumento fondamentale per la tutela della solidità del sistema bancario italiano e soprattutto di chi ci deposita i soldi, appunto il presidente del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Buongiorno professor Savona. Buongiorno, sono io che devo ringraziare. Allora, possiamo cominciare dai consigli concreti, dalle indicazioni concrete, per così dire, dalle scelte giuste per uscire dalla crisi, quelle che riguardano l'Italia, e poi allarghiamo il ragionamento e capiamo perché lei propone di adottare una strada, insomma, che è un po' diversa dagli avanzi primari fatti per sanguinosa via più che altro fiscale, su cui l'Italia ancora una volta, come da tanti anni, pensa di risolvere il problema della sostenibilità della sua finanza pubblica. Cominciamo dalla ricetta per l'Italia. Oggi che cosa farebbe lei? E poi ampliamo, perché il ragionamento suo è molto più ampio, riguarda l'euro, riguarda le istituzioni finanziarie e monetarie del mercato globale. Ma in Italia, da lei, da che cosa comincerebbe? Intanto volevo premettere, per tutte le cose che dirò, che vivo in una situazione peculiare, che spero di avere torto nella mia diagnosi. Mi darebbe grande gioia, perché significa che la politica italiana si sta indirizzando nelle scelte giuste. Per quanto invece riguarda le mie scelte giuste, che sono di tipo particolare, brevemente lo dirò, io ho una interpretazione precisa. Lo Stato, anche su sollecitazione del cittadino, pesa troppo dal punto di vista economico e interviene troppo nel decidere le nostre sorti, e oggi ci impone un pensiero unico che per giunta proviene dallo Stato, i tedeschi insieme ai francesi, che a un certo punto lo esprimono e quindi non viene dall'interno del paese. Io sono stato sempre contrario al vincolo esterno, perché il compito della politica, proprio nella mia visione, che lo Stato non deve decidere le mie sorti, ma lo deve decidere io, la politica nella competizione democratica deve proporre le varie soluzioni della società. E questo non l'ha fatto. È stata felice ogni volta, su pressione delle diverse necessità, di intervenire, fino al punto in cui oggi si piglia metà del reddito nazionale, e questo è un peso che a un certo punto l'economia produttiva, la vera economia produttiva, non sorregge. E poi è un principio di democrazia. Allora, quali sono le scelte giuste? Le scelte giuste inevitabilmente sono l'impegno che la politica deve porre per convincere i cittadini di convivere con ciò che gli impone il resto del mondo, di fare scelte anche contro tendenza, però cosciente che se fa scelte contro tendenza deve pagare un costo. Allora, il primo punto è: si è rotto col debito pubblico il patto intergenerazionale, quindi la prima scelta, mi riallaccio alla proposta di Friedrich von Hayek, e delle due Camere devono avere due compiti diversi. La Camera dei Deputati interessarsi degli interessi, chiamiamoli, delle generazioni presenti, e il Senato della Repubblica invece interessarsi degli interessi delle generazioni che verranno, affidando, direi, questo compito a persone di alto lignaggio che sono affermate, persone per bene. La seconda invece scelta giusta è quella di non dimenticare che il grande processo democratico che è avvenuto in Italia e nel mondo è il riequilibrio tra i poteri del capitale rispetto al potere del lavoro. Qua sono stati commessi da una parte e dall'altra, perché lo stesso sindacato dei lavoratori negli anni 60, quando si è reso conto, dopo il centro-sinistra, che aveva acquisito potere, è andato oltre ponendo una serie di vincoli e quindi rendendo meno flessibile il sistema e quindi meno adatto a convivere con la competizione internazionale. La terza e quarta, le prendo insieme, scelta giusta, è che la politica estera deve essere indirizzata per riformare sulla base dei nuovi sviluppi geopolitici iniziati con la caduta del muro di Berlino, le varie istituzioni internazionali, quelle più importanti, il WTO, cioè l'istituzione del commercio internazionale, il Fondo Monetario Internazionale e in particolare l'Unione Europea. Se non riusciamo ad avere successo, ed è questo il mio passaggio più difficile, se il dovere dei governanti di uno Stato-nazione è tutelare gli interessi, se non riusciamo del proprio paese, se non riusciamo a mettere in equilibrio questi interessi con gli interessi del resto del mondo, allora l'isolamento, l'uscita da queste istituzioni o da alcune tra queste diventa un atto indispensabile e dovuto dal punto di vista costituzionale. Nel riepilogo al termine del libro Resia, esercismi e scelte giuste per uscire dalla crisi, editore Rubettino, è un riepilogo che lei dedica alla manovra Monti e alla vecchia Europa. Leggo testualmente ciò che lei scrive. Dice, pagina 96, ammesso e non concesso che si dovesse ricorrere a una manovra classica e non a un piano o programma vero e proprio che affrontasse i problemi di fondo interni europei ed esterni oltre a quelli contingenti, una classica manovra congiunturale avrebbe dovuto e potuto svilupparsi come segue, e lo dice a proposito del fatto che il presidente del Consiglio Monti ha definito la manovra un po' enfaticamente giudicata Salva Italia come senza alternativa, e il professor Savona dice invece no, alternative avrebbero potuto esserci e come, e articola in due pilastri la riflessione su una manovra alternativa. Riprendo a leggere. Primo, cedere il patrimonio pubblico almeno nell'ordine di 300 miliardi di euro, pari ai titoli che giungeranno a scadenza nel 2012, allo scopo di non andare sul mercato, in attesa di capire il da farsi per ottenere una ripresa produttiva e dell'occupazione e le idee dell'Unione Europea. Quindi, prima proposta, cedere il patrimonio pubblico almeno nell'ordine di 300 miliardi. Seconda proposta, tagliare di 45 miliardi di le spese totali primarie, cioè quelle al netto degli interessi, pari al 3% del PIL, che con i risparmi ottenuti rimborsando il debito pubblico con i proventi della cessione del patrimonio pubblico avrebbero consentito, disponendo di margini di sicurezza finanziaria, di garantire il pareggio del bilancio pubblico per un più lungo periodo di quello che il governo si è prefissato e di investire inoltre qualcosa per stimolare la ripresa. Professor Savona, perché secondo lei le proposte di intervenire sugli stock invece che sui flussi, debito pubblico e ammontare complessivo spesa pubblica, ottengono così poca attenzione nel dibattito degli economisti e sembra che poi la politica, sia al governo, centrosinistra, centrodestra o i tecnici, in cui tutto sembra cambiare nelle formule politiche, ma in realtà la risposta data e riservata a proposte come la sua, tagliare gli stock invece che i flussi, è sempre la stessa, cioè totale disattenzione. Lei come se lo spiega? Ma sembra che l'attenzione sia incominciata in modo sbagliato ultimamente, perché si propone di cedere 50 miliardi di patrimonio pubblico per pagare i debiti dello Stato, significa ancora una volta spuntare l'importanza di questo strumento. A mio avviso è qua, la proposta di cui ha parlato ieri il Corriere della Sera, esatto, anticipata da Massimo Mucchetti. Esatto, mentre la mia idea è di affrontare lo stock del debito pubblico, perché è successo che tutto sommato dalla crisi americana, dagli effetti, dal contagio della crisi americana, l'Italia è stata quella più immune di tutte. Il problema del debito pubblico preesisteva, mentre gli altri lo hanno avuto recentemente perché sono intervenuti al sostegno delle imprese e delle banche. In Italia ciò non è accaduto. E allora il problema dell'Italia, e questo è stato l'errore di interpretazione, che fosse solo un problema di deficit e non un problema di stock. A un certo punto, quando è successo il caso della Grecia, i sospetti si sono spostati sull'Italia, anche sull'Italia, che aveva il 120% del debito pubblico PIL. Perché non si aggredisce questa variabile che io ritengo sia fondamentale per il mercato? Forse la mia interpretazione, ma me la devono spiegare, e comunque sia, consideriamo una provocazione, la politica di tutte le correnti, di tutti i partiti è troppo agganciata al patrimonio pubblico e non lo vuole mollare. Ecco, io credo che questo giudizio del professor Savona sia ai miei occhi confermato dalla mia limitatissima esperienza. Mi chiedo quanti di voi in ascolto capiscano che al di là delle appartenenze dichiarate alle diverse scuole e così via, la realtà di fondo sembra confermare drammaticamente per molti versi, per molti aspetti della vita italiana, questo fatto. Se il perimetro di questo troppo Stato, che intermedia troppa parte del reddito nazionale, non si riesce mai non dico a ridurre strategicamente come vorrei io, ma neanche a scalfire, e non è una questione ideologica, qui è una questione concreta, e la parte troppo elevata di interessi che insistono in questa intermediazione e in questa amministrazione impropria. E sono interessi, sì, dei 250.000 che campano di politica, ma mica solo loro, a dire la verità. Cerchiamo di essere concreti, ci sono fette di mercato e fette di nicchie di impresa che vivono al riparo dei prezzi e delle tariffe amministrate, regolate politicamente, amministrativamente, discrezionalmente, con finte aste, finte gare e così via. Quindi ci sono naturalmente i loro dipendenti, ci sono i loro fornitori, i loro clienti, c'è un pezzo d'Italia che campa strategicamente all'interno di quel perimetro e che tutto sommato quindi non solo non si stupisce, ma non vuole neanche che sia discusso. Però politicamente, professor Savona, per costruire un'alleanza di coloro che sono gli svantaggiati invece del perimetro pubblico che si espande sempre, e per tentare di dare forza a chi dice a questi livelli bisogna aggredire gli stock e non i flussi, l'esperienza italiana in tanti decenni, che cosa le consiglia? Cioè, politicamente come si può mettere mano all'alleanza degli sconfitti dal perimetro pubblico? È solo con l'educazione, insisto ancora, spiegare ai cittadini e renderli responsabili. Il vincolo esterno, che è stato quello sempre perseguito, perché anche nell'immediato dopoguerra si è accettato il vincolo esterno del Fondo Monetario Internazionale, dei cambi fissi, e poi dopo abbiamo accettato il rafforzamento del vincolo esterno fino al punto in cui ci siamo disfatti della sovranità monetaria. Questo, a mio avviso, è stato diseducativo. Io credo nella capacità degli italiani di reagire alle difficoltà e di darsi da fare, più di quanto non abbiano creduto i governanti, compresi i miei maestri, con cui avevo sul tema una disputa molto forte. Quindi il discorso di fondo non può se non passare dalla educazione del popolo, e quindi, ed ecco quindi la proposta di von Hayek, dal fatto che una delle due camere incomincia a dire: no, mi dispiace, questa generazione non si può mangiare anche una fetta del reddito della generazione futura. Il debito pubblico significa questo, è l'unico modo attraverso il quale il debito pubblico entra nell'analisi economica, è la tassa differita. Ma se differisci la tassa sulle generazioni future, evidentemente la situazione peggiora, non migliora nel paese, che è quello che sta accadendo in questo momento. E questo problema di affrontare cedendo il patrimonio che è stato accumulato dalle generazioni passate, che bene o male hanno beneficiato, credo che sia la soluzione. Oggi la linea di movimento sulla quale anche molti giornali, compreso te, insistete, è che la patrimoniale sul patrimonio privato è decisamente più popolare, voluta e perseguita da tutte le forze politiche, più di quanto non sia la cessione del patrimonio pubblico. Se tu vuoi essere legittimato, ohimè, per via... Esatto. È così, ohimè, è così. Ora abbiamo la pubblicità. Io continuo a dirvi: questa lettura di queste 100 pagine vi può dare l'idea. La parte centrale del libro, quella che riepiloga, per esempio, rapidissimamente tutte le volte che si è detto con questa manovra, negli anni 90, 2000 e così via, riagganceremo il pareggio con questa manovra, eccetera. Poi, naturalmente, di anno in anno, la grande illusione di cui è vissuto il vincolo esterno praticato per saldi primari per via fiscale si è rivelata sempre di più una grande illusione, e la differenza è che la pressione fiscale sale, la spesa pubblica, soprattutto la parte corrente, non quella per investimenti, ha continuato a salire, ci siamo mangiati il dividendo dei bassi tassi dell'euro, per poi scoprire che eravamo diventati il detonatore potenziale dell'euro. Eccoci tornati qua in studio, stiamo parlando di eresie, esorcismi e scelte giuste per uscire dalla crisi, il libro appena edito per Rubettino dal professor Paolo Savona. Leggo un altro passaggio dal libro, pagina 69. Scrive Savona: la posizione che intendiamo ribadire una volta per tutte, respingendo le diverse interpretazioni datene, è che un paese dotato di gruppi dirigenti seri deve essere pronto ad attuare un piano A, dotato di tutte le scelte necessarie per stare nell'euro, in contropartita di quelle garanzie di stabilità e sviluppo che non sono mai state negate in principio da nessuno dei nostri partner europei, ma mai praticate di fatto, come dimostra l'abbassamento del saggio di sviluppo non solo nostro nei 20 anni circa trascorsi dalla firma del trattato di Maastricht. Ma un paese con classi dirigenti serie deve anche essere in grado di attivare un piano B, cioè dotato di un programma di emergenza sostenuto da alleanze internazionali solide che garantiscono la possibilità di rientrare in possesso degli strumenti tradizionali della politica economica, cioè la creazione monetaria, i tassi di interesse, i rapporti di cambio, entrate e spese pubbliche, per recuperare la responsabilità del nostro futuro in un habitat democratico oggi mancante. Parole, professor Savona, che è chiaro, fanno sempre scattare l'accusa che scattò anche quando, insieme ad altri, all'epoca anche il governatore della Banca d'Italia Fazio, Cesare Romiti e così via, diceva le stesse cose prima che però ci fosse l'euro, ammonendo sui suoi rischi, cioè l'accusa di essere un euroscettico. Eh sì, appunto, questo me la porta appresso, ma penso invece che è proprio perché ritengo l'Europa un disegno politico importantissimo e indispensabile, che è diventato ancora più importante e indispensabile dopo la caduta del muro di Berlino e diciamo l'apertura al mercato globale. Si compete ormai per centinaia di milioni di abitanti, cioè di mercato, di produzione e di consumo, e quindi noi con l'Europa unita avremo 400 milioni di abitanti e quindi potremo competere con gli Stati Uniti, che ne ha altrettanto, e in parte anche con i paesi asiatici e l'India. È indispensabile, però bisogna costruirla bene, perché fare male le cose che si possono fare bene. Noi siamo arrivati alla decisione di firmare il trattato di Maastricht, io ero collaboratore di Guido Carli, quindi conosco la vicenda con esattezza, perché era venuto questo dubbio che l'Italia dovesse necessariamente stare dentro, perché altrimenti sarebbe caduta. Io ero favorevole, come ha fatto il Regno Unito, a firmare il trattato, ma esercitare la clausola dell'opting out, ancora una volta per aprire all'interno del Paese un serio dibattito di quali erano le condizioni per starci, il piano A. Non l'abbiamo fatto, ci troviamo in questa situazione. Dice, eravamo sotto schiaffo e non potevamo far niente, e questo l'abbiamo già commentato prima, nel senso che c'erano delle alternative, cedevi il patrimonio pubblico e abbattevi il debito pubblico e ci andavi con statistiche un pochettino più realistiche, statistiche del debito pubblico. Oggi il dovere dei gruppi dirigenti, di fronte al fatto che la Germania vuole estendere il pensiero unico della unione fiscale, cioè degli obblighi di pareggio del bilancio, di tutti gli obblighi di convergenza del debito pubblico nel giro di un ventennio, il che significa una delle peggiori deflazioni della storia dell'Italia unita, la Francia che si allea alla Germania per contare qualcosa, il Regno Unito che dichiara che non ne vuol sentire dell'unione politica, cioè sono cambiate le basi della nostra adesione. Allora facciamoci bene i calcoli di quanto costa starci. Se ci danno in contropartita la garanzia del debito pubblico, come sta chiedendo adesso Mario Monti, ma lo doveva chiedere da subito a mio avviso, in ogni caso è giusto che lo abbia chiesto, d'altronde ho già premesso nel mio intervento che spero di aver torto per il bene del Paese, perché se io avessi ragione la situazione andrebbe veramente molto peggio di quanto non stia andando. E per questo motivo l'idea di cosa succede al nostro debito pubblico nel caso di cambio di denominazione, che cosa succede a tutti i contratti privati denominati in euro, come ci comporteremmo rispetto ai debiti intitolati in euro che sono in mani straniere, dovremmo avere un piano di questo tipo. Io ho dichiarato in Senato che quando per la prima volta nel luglio scorso ho ribadito ancora questo concetto, ricevetti una telefonata dell'allora ministro del Tesoro Tremonti, il quale mi diceva che il piano B l'Italia l'aveva. Questo mi ha rasserenato, e non è un modo di dire vogliamo uscire dall'Europa, è un modo di andare in Europa e trattare seriamente, sulla base anche pragmatica di un'analisi costi e benefici, che non è stata fatta. Anche perché se non si hanno mai piani B si è, come dire, dei vercingetorige al carro, nel senso legati al carro di chi ha vinto e tu sei uno sconfitto, ci vuole sempre un'alternativa ragionevole in termini di costi e benefici del paese. Tante volte abbiamo detto che se l'accusa ai tedeschi è quella di non voler un lender of last resort, andiamo a vedere il sistema Eurotarget dei movimenti dei prestiti tra banche dell'eurosistema, troviamo che Bundesbank, quindi la banca tedesca che fa parte del sistema europeo delle banche centrali, è esposta oramai per quasi 700 miliardi di euro nei confronti delle altre banche centrali del sistema, soprattutto nei confronti di quelle dei paesi eurodeboli. E quindi, in altre parole, poiché questi 700 miliardi di euro di esposizione, se facciamo un paragone, il TARP americano era 2.4 trilioni di dollari, 2.400 miliardi di dollari, però di questi solo 1,4 trilioni erano per la parte degli intermediari bancari. Se facciamo un paragone, la Germania con 80 milioni di abitanti e il trilione di dollari, perché 700 miliardi di euro sono un trilione di dollari, della sua esposizione di Bundesbank nei confronti delle altre banche centrali, poiché la Germania ha 80 milioni di abitanti e non tre volte tanti come gli Stati Uniti, è in realtà a ben pesarlo quasi maggiore dell'impegno che il TARP ha rappresentato per la parte degli intermediari bancari, 1.4 trilioni di dollari, per un mercato però unito da parte degli Stati Uniti. Questo lo dico perché in quel caso agli occhi dei tedeschi il trade-off, la misura dei costi-benefici tra stare in un euro condiviso o fare un euro più forte tra paesi integrati, si misura proprio per esempio su quale parte di quei 700 miliardi di esposizione della propria banca centrale ci si rimette nel caso in cui c'è la rottura. Questo per dire, insomma, i conti delle analisi costi-benefici bisogna farli sempre. Allora, ci ha raggiunto Gianluca Garbi. Gianluca Garbi è amministratore delegato di Banca Sistema, che è una banca indipendente nata nel 2011 con la partecipazione di tre fondazioni bancarie e di Royal Bank of Scotland Special Opportunities Fund. E Garbi è stato capo in Italia del per Commerce Bank e per Dresdner, ha rivestito importanti incarichi come country manager, ma soprattutto a noi tutti che ci occupiamo di queste cose è conosciuto, ben apprezzato, e io sono tra quelli che lo hanno ammirato per questo, perché è stato tra il 1998 e il 2007 l'amministratore delegato di MTS SPA e di Euro MTS, cioè il mercato paneuropeo dei titoli di Stato con cui l'Italia tecnicamente si è messa all'onore del mondo e si è affermata come un paese leader esattamente nella tecnica di gestione del totale del debito pubblico e anche delle sue negoziazioni. Quindi è stato in quegli anni al Ministero dell'Economia e delle Finanze, era membro del Consiglio di Esperti Economici e riportava direttamente al direttore generale, che all'epoca appunto era Mario Draghi, poi è andato in Banca d'Italia e oggi alla BCE, ha una lista lunga di tanti altri titoli, ma mi interessava, siccome lo conosco, lo stimo da anni, Gianluca Garbi, soprattutto, oltre che ringraziarlo, chiedergli cosa pensa lui di questa alternativa dello stock che non viene mai affrontato dalla politica italiana, quello di cui stiamo parlando con il professor Paolo Savona in occasione dell'uscita del suo ultimo libro. Nella sua esperienza, lui che si è trovato a costruire, a mettere in piedi il mercato dei titoli pubblici italiani, come mai nella comunità degli addetti ai lavori, dei politici ma anche degli economisti eccetera eccetera, questo discorso su i piano A, piano B, costi benefici su tutto ciò che riguarda l'euro e aggredire lo stock di titoli del debito pubblico, concessioni pubbliche invece che andare avanti per avanzi primari che ogni volta non colgono l'obiettivo perché fanno decrescere il denominatore più rapidamente di quello dei concorrenti, come mai in tanti anni non si è mai messa a fuoco questa alternativa nella sua esperienza, Garbi? Beh, innanzitutto buongiorno e grazie per l'introduzione. Ma in realtà non è che non si è mai cercato di farlo. Si è cercato negli anni di farlo in vari modi, basta pensare tutto il mondo delle cartolarizzazioni pubbliche per la cessione degli immobili che rappresentano comunque stock del patrimonio, basta pensare al fatto che in Italia esiste il fondo di ammortamento gestito dal Tesoro, per cui tutte le privatizzazioni, tutte le cessioni devono entrare dentro questo fondo e questi soldi possono essere spesi esclusivamente per l'abbattimento del debito pubblico. Quindi, se capisco il suo linguaggio un po' felpato, l'esperienza non troppo positiva tecnica delle cartolarizzazioni e il dibattito successivo alla grande ondata di privatizzazione dei primi anni 90 sono quello poi il freno, per non insistere sulla stessa strada? No, non sono il freno, semplicemente è un dato di fatto che si è provato e si continua a provare e ogni singolo governo nel suo piccolo o nel suo grande ha cercato di portare avanti queste cose. Poi esistono degli stop che arrivano dalla politica per cui alcune privatizzazioni vengono bloccate perché alcune società sono di interesse cosiddetto nazionale, senza per me molto essere comprensibile cosa sia l'interesse nazionale a detenere per esempio l'ACI piuttosto che la SACE. Più discutibile il discorso RAI, però anche da quel punto di vista per perché non discuterne, è impossibile pensare alla privatizzazione della RAI in un governo come quello precedente, però perché non parlarne adesso? Ci sono una serie di asset invece che Finmeccanica, Eni, Enel, che effettivamente sono strategici per il paese, altri meno. Sul discorso degli immobili qual è il grosso problema? Il grosso problema è stato che, e continua a essere, il fatto che molti degli immobili pubblici sono occupati da persone che fanno parte della macchina pubblica, della burocrazia pubblica, sono da questi abitati o occupati in una piccola parte, quindi a un certo punto non cedibili. La cartolarizzazione sugli immobili è stato uno di quegli eventi positivi all'inizio che poi hanno generato l'obbligo da parte del Ministero del Tesoro di metterci 2 miliardi sul piatto per rifinanziare la posizione della cartolarizzazione, per evitare che questa cartolarizzazione fallisse, perché il piano di dismissione degli immobili non era andato secondo quelle che erano le logiche, quindi i tempi della cartolarizzazione. Quindi il vero problema non è nella volontà e che c'è qualcuno che non abbia la volontà di dismettere tutto quello che è questo stock pubblico. Il problema sta nel riuscirci. E allora ci si scontra davanti a un muro di gomma che è la burocrazia, che non permette di andare avanti. Aspetti che abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. E mentre riparte, come in tutte le nostre conclusioni, ripartono i Doors. Io però, lei dice, Gianluca Garbi ci ha detto, non è una questione tanto di volontà politica, tutti i governi ci provano, ci sono un po' di questioni tecniche, il problema è farlo. Io trovo per esempio che il governo precedente abbia praticamente fatto nulla su questa strada, e sono anche deluso un pochino da questo, parecchio da questo, che nella sua presentazione iniziale, nella sua manovra Salva Italia, di questo non parla. Sono deluso per esempio e colpito dal fatto che abbiamo per legge avviato la ricognizione del patrimonio pubblico da anni, e alla data puntuale ogni anno, perché è la data fine marzo nella quale il totale degli oltre 9.000 soggetti che compongono la pubblica amministrazione italiana centrale e periferica a marzo dell'anno scorso non aveva dato risposta alla domanda di ricognizione del totale dei propri asset mobiliari, immobiliari, intangibles, quindi concessioni, se non in una percentuale pari al 53% dei casi, cioè più di metà dell'amministrazione pubblica italiana neanche ha preso in considerazione l'obbligo di ottemperare alla legge di comunicare al Tesoro il totale degli asset controllati. E questa è la situazione puntualmente fotografata sul sito del Tesoro. Se andate a vedere, del Dipartimento del Tesoro c'è un subcapitolo analisi patrimoniale, si chiama, e trovate tutti i dati della stima di portafoglio delle attività immobiliari di quel 53% di chi ha dato la risposta allo Stato, e siamo intorno ai 400 miliardi. Quindi da questo punto di vista uno Stato che neanche riesce a sapere da se stesso ciò di cui è in possesso mi fa pensare che davvero quell'alleanza di cui parlava il professor Savona, di tutti coloro che in qualche maniera ci campano su questo bel attivo pubblico e sulla sua intermediazione sia molto forte. Teniamo conto, lo dico per chi ci ascolta, che si tratta di un patrimonio che costa più quel che rende, persino nella sua parte del mattone, quindi da questo punto di vista uno scandalo, perché rendesse almeno, ma invece continua a costare più di quel che rende. Garbi, cosa pensa di quello che Corriere della Sera, poi torniamo al professor Savona, ha scritto ieri per tenere buone le imprese, cioè per 3 punti di PIL di debito che lo Stato non onora con i suoi fornitori, prendere il risparmio postale di Cassa Depositi e Prestiti, utilizzarlo poiché Cassa Depositi e Prestiti è fuori dalla linea del debito pubblico in Eurostat, girarlo al Tesoro, il Tesoro paga una cinquantina di miliardi di debiti ai propri fornitori, ma nel frattempo parcheggia presso CDP la proprietà e il controllo di un bel po' di società pubbliche. Non è una furbata, perché l'Eurostat dovrebbe passarcelo? CDP ce l'hanno accolta come privata perché erano le fondazioni dentro, ma così non è anche un regalo alle fondazioni, oltre che no a tutte le privatizzazioni? Lei che dice, Garbi? Ma guardi, con tutte le dichiarazioni fatte negli anni dei soldi della Cassa Depositi e Prestiti, dove le varie dichiarazioni dovessero essere sommate, io penso che la Cassa Depositi e Prestiti avrebbe già finito i soldi da tempo, perché ogni politico ha una sua dichiarazione di dove utilizzare quello che deve fare e dove prendere i soldi, sempre la Cassa Depositi e Prestiti. Meno male che alla fine non è così. E sarà così anche stavolta? Ma sarà così anche stavolta. volta, perché il problema fondamentale è, e sono assolutamente d'accordo con Paolo Savona, che fra l'altro saluto, bisogna tagliare la spesa pubblica, cioè non si può pensare di risolvere i problemi con la finanza, cioè noi stiamo dicendo che troviamo un meccanismo di soluzione. Beh, innanzitutto la finanza si può autorisolvere, se i crediti nei confronti della pubblica amministrazione fossero facilmente finanziabili, ovvero certificati eccetera, verrebbero finanziati, quindi il problema della liquidità delle imprese verrebbe risolta dal sistema bancario, il quale ha appena ricevuto e continua a ricevere dalla Banca Centrale Europea delle grossi ammassi di finanza all'1%. Certo. Quindi il problema è che molti di questi crediti non sono finanziabili perché manca il muro di gomma di cui parlavo e di cui si faceva accenno sul discorso dei mobili. Esiste dappertutto, cioè la burocrazia non consente di andare avanti, e quindi non c'è la ricognizione degli immobili, c'è questo muro di gomma per cui non si riesce ad abbattere il debito, abbattere la spesa. Su quello bisogna lavorare. Aspetti, la interrompo per un'ultima domanda flash. Professor Savona, politici come Cossiga, che parlavano a volte dell'interesse nazionale anche in senso internazionale, capaci di dire bisogna battersi a fronte alta, capaci di dire di no, sembra che li abbiamo dimenticati. Oggi sembra che l'Italia debba solo dire di sì. Come si fa? Appunto, il problema è come mai non riusciamo più a fare uscire dall'interno del paese dei leader con le volontà così forti come Cossiga o come tecnici come Guido Carli, Paolo Baffi eccetera. E questo era, direi, un quesito che in continuazione lo stesso Cossiga mi rivolgeva, dice: ma chi comanda in Italia? Chi sono i poteri forti? E su questa domanda, la quale non la voglio fare inoltrare, dico solo: leggete Eresie, esorcismi e scelte giuste per uscire dalla crisi, Rubettino. Grazie al professor Paolo Savona, Gianluca Garbi, lo spazio è finito per noi, appuntamento a domani.